Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Con la mano destra cerco un appiglio buono che non trovo. A sinistra la mano non ha nulla. In aderenza con i piedi e con la destra riesco ad alzarmi di alcuni centimetri. Guardo in basso e vedo il mio compagno sotto di 3-4 metri al massimo. Tra me e lui non c'è nulla che possa bloccare una mia eventuale caduta. Mi chiamo Stefano, faccio il camionista in questo momento per la Carrefour. Abito a Cogne, sono di adozione a Cogne, in quanto sono venuto qua per amore della montagna e qua poi ho trovato anche mia moglie. È il 22 di maggio del 2012, buongiorno a tutti. Sono le 16:07, sono tornato a Milano, in diretta da Milano dove misteriosamente splende il sole, anche nella splendida Sera del Sole 24 Ore di Radio 24. Oggi si parla di salire e di cadere, si parla di arrampicarsi e di perdere la presa. E lo facciamo innanzitutto con Stefano, che è l'autore del racconto di oggi, da cui come al solito partiamo per raccontare le nostre storie. E vi ricordo l'indirizzo email, visto che qualcuno evidentemente arriva tardi e mi scrive sul profilo Facebook, dove posso mandare le storie. Le storie continuate a mandarle a voi siete qui, @radio24.it. Continuate a farlo perché è vero che manca poco più di un mese alla fine della stagione, ma c'è tutta la prossima per raccontare le vostre storie. Vi dicevo, la storia di Stefano parla di una sua passione, che è l'alpinismo. La categoria montagna, già dicevamo, è molto frequentata dalle storie, arrivano moltissimi racconti, non li mandiamo in onda tutti perché purtroppo alcuni magari raccontano cose simili a quelli che sono già andati in onda. Ci sono diversi motivi per cui spesso non scegliamo certi racconti e ne scegliamo altri. Quello di Stefano però, proprio perché parla di montagna ma non parla solo di arrampicare, lo abbiamo scelto subito perché in una parte del suo racconto lui spiega come durante la caduta, in quell'episodio particolare, questo che racconta, perde un appiglio, cade e in quei pochi secondi di caduta lui realizza di provare una certa fascinazione per quella caduta. Ne parliamo con lui, ne parliamo attraverso il suo racconto e più tardi, dopo la borsa, rimanete con noi perché ne parliamo. È una cosa che noi non facciamo di solito, avere ospiti importanti, però c'è una passione comune per la montagna in questa redazione che va da Tiziano Bonini a Paolino Corleone. Ancora questa registrazione, siamo ragazzi. Siamo a 261 metri dalla vetta. Vetta. Gran paradiso. La vetta è stata raggiunta. Certo. Sì, guardami però, sembro uscito dalla crisi del 29. Io ringrazio Tiziano Bonini e Paolino Corleoni per mandare ogni volta che si parla di montagna questa esperienza che io vorrei ricordare, ma tant'è. Dicevo, se ne parla con Stefano, autore del racconto, e soprattutto se ne parla nella seconda parte con Simone Moro. Simone Moro è probabilmente il più forte alpinista italiano del momento, lo conoscerete perché l'avrete visto probabilmente ospite in TV, perché avrete magari letto alcuni suoi libri o sentito parlare dei suoi libri. Oggi però parla con noi direttamente dal campo base 2, mi pare, dal campo base 2 a 6500 metri di altitudine mentre sta salendo verso l'Himalaya. Un disclaimer veloce: volevamo intervistarlo in diretta ma non era possibile, l'abbiamo intervistato alle 3 un'ora fa, l'intervista è molto lunga quindi ne sentirete solo una parte in diretta alle 16:30-16:32, tutto il resto sarà in podcast dove potete scaricare dal sito e da iTunes abbonandovi gratuitamente le ultime 5 puntate del programma. Quindi rimanete lì anche dopo la borsa perché si parla con Simone Moro, ripeto, è una cosa che non facciamo, avere ospiti, però questa volta eccezionalmente sì. 349 238 6666, c'è un fascino nella caduta, l'abbiamo chiesto partendo proprio dal racconto di Stefano sul profilo Facebook, e Barbara dice: il fascino è essere un po' coccolati, anche se non so che cosa voglia dire. Cinzia: forse il desiderio di smettere di combattere e ritrovare le forze e la gioia per risalire. E poi Carlo dice che cadere abbia un fascino è un'idea romantica, giovanilistica e visti i tempi decisamente superata. Probabilmente vale solo in amore, perché per il resto se cadi non ti rialzi più. Beh Carlo, allora ascoltati per un attimo il racconto di Stefano. Siamo saliti sino al rifugio Torino, sul Monte Bianco, con la prima funivia della mattina. Sul piazzale fuori dal rifugio rimango letteralmente incantato alla visione che mi si presenta davanti. Era solo l'inizio del Mar de Glace. Il più bello spettacolo mai visto, il mare ghiacciato. Procedendo su delle tracce lasciate precedentemente da qualche alpinista, proseguiamo verso la Pyramid d'Utakul, da dove parte poi la nostra via, la Hot Odds. Lascio andare avanti i miei amici e mi godo lo spettacolo. A destra potevo ammirare il Dente del Gigante e i Dru, A sinistra rimango alcuni istanti a fissare il Gran Capucin. Mi sembra di esserci già stato qui. Se in quel momento mi si fossero affiancati grandi alpinisti del passato, Bonatti, Bull o Cassin, non mi sarei meravigliato più di tanto. Arriviamo all'attacco della via e, come in un vecchio rituale, sistemiamo gli zaini e indossiamo gli imbraghi prima di cominciare a salire sulla parete, quella che abbiamo di fronte. Faccio sicurezza al mio compagno Luca, che si accinge a partire. Ora sono concentrato sulla parete che sto per affrontare. Già scalpito al pensiero di intraprendere anch'io quell'arrampicata. Il primo libro di alpinismo che ho letto è stato Le mie montagne di Walter Bonatti. Da lì ho iniziato poi a leggere altri libri, sempre di Walter Bonatti o di Reinhold Messner, e pian pianino di seme, diciamo, è germogliato dentro, leggendo le loro avventure, facendo mie le loro avventure, diciamo. Sono contento che senza chiedermi nulla Luca sia partito da primo, in cordata. Luca procede rapidamente davanti a me e poco dopo è il mio turno. Arrivato alla sosta, chiedo a Luca di darmi tutti i ferri per la sicurezza. È il mio turno di procedere per primo. Salgo un metro sopra la sosta e, vedendo la via facile, decido di non mettere protezioni per agevolarmi l'arrampicata. Salgo in linea retta e mi trovo in equilibrio proprio davanti ad una spaccatura. L'avrei dovuta evitare, come ha fatto la cordata avanti a noi, ma io ho voglia di affrontarla. Mi pare semplice. Ce la devo fare. Con la mano destra cerco un appiglio buono che non trovo. A sinistra la mano non ha nulla. I piedi sono in opposizione sulle due pareti che creano un angolo di 90 gradi, sorretti da due piccole tacche che tengono molto bene. In aderenza con i piedi e con la destra, che nel frattempo ha trovato una tacchetta spessa mezza falange, riesco ad alzarmi di alcuni centimetri. Guardo in basso e vedo il mio compagno sotto di 3-4 metri al massimo. Tra me e lui non c'è nulla che possa bloccare una mia eventuale caduta. Comincio a sentirmi poco sicuro, ma non ho scelta. Devo vincere la paura. Quella è stata la prima volta che ho avuto un incidente, anche l'unica, a dir la verità, ed è capitato proprio per il fatto che ero giovane e convinto che ero immortale, e così l'ho pagata. E tuttora la sto pagando, a dir la verità, perché il piede si fa sentire nonostante siamo passati tantissimi anni. Faccio un bel respiro e rieseguo il passo. Intanto le gambe cominciano ad avere l'effetto macchina da cucire. Guardo ancora il mio compagno. Con la mano sinistra raggiungo una bella presa, seppure inclinata verso il basso. Posso farcela. Mentre studio come tirarmi fuori, sento i piedi che non tengono bene. Il piede a sinistra sta scivolando lungo la parete. Afferro la presa in alto, con la sinistra e con la destra mi mantengo in equilibrio, sfruttando la tacchetta di mezza falange. Sono terrorizzato, ma sono convinto di farcela. Carico il peso del corpo sulla presa in alto, aiutandomi con la mano destra. La sudorazione delle mani è esagerata. Il piede sinistro scivola prima che io abbia caricato bene il peso sul braccio sinistro. Sento la presa della mano scivolarmi da sotto il palmo. I due piedi penzolano nel vuoto. Stringo quella presa al massimo per opporre resistenza, ma è tardi. La mano sinistra sbatte con grande forza contro la roccia. Cado. Difficile dire con precisione cosa ti passa per la testa in quegli istanti. La sensazione più grossa è la rassegnazione. Sono convinto di andarmene definitivamente. Chiudo gli occhi e respiro. Mi sento invadere da una dolce sensazione di benessere, di libertà, di leggerezza. Penso a mio papà, a mia mamma, e nel pensiero li saluto per l'ultima volta. Sbatto con violenza sulla prima cengia, quella che ci ha fatto la sosta. Non sento il dolore e cado ancora più in basso. Ecco, questa volta penso che sia finita. E invece no. Senza che neppure entri in tensione la corda, mi fermo sdraiato su di un finto piano. Sono fermo e vivo. Dietro gli occhiali da ghiacciaio, mentre i miei amici si attrezzano per darmi soccorsi, mi metto a piangere. Down the government, they don't. Il fascino della caduta c'è, esiste. È una cosa incredibilmente perversa e difficile da spiegare, ma esiste. Ora, tolti quelli di voi che ci stanno ascoltando e che soffrono terribilmente di vertigini, a cui probabilmente non è il caso di dire certe cose o suscitare certi ricordi, è che io vorrei proprio chiedervelo se potessi. Voi non avete mai subito quell'irresistibile fascino che ha a cadere? Quando siete in alto sulla cima di un palazzo, ad esempio, e vi sporgete da un balcone, non avete quella strana sensazione della forza di gravità che aumenta? Non sentite dentro di voi quello strano senso di richiamo verso il vuoto? Non sto parlando di gesti inconsulti, sia chiaro. Sto parlando di quella strana sensazione, di quell'indescrivibile richiamo verso il vuoto, che molti hanno, o almeno io ce l'ho. Non lo so, forse sono pazzo, però ce l'ho. E poi, ovviamente, c'è uno dei più grandi luoghi comuni del mondo onirico. Quante volte vi è capitato di sognare di cadere e poi, a un centimetro dall'impatto, scatta quel meccanismo di autodifesa che ci sveglia? Ecco, io ogni anno, la prima volta che metto gli sci ai piedi, ogni inverno, la notte prima mi capita di sognare di fare un normalissimo saltino con gli sci, che poi, con la logica senza logica dei sogni, diventa gigantesco e mi proietta ad almeno 100 metri d'altezza. E io cado verso il vuoto, mentre casco tento di capire come fare a non schiantarmi al suolo. Miro gli alberi che mi sembrano più morbidi o dei cucuzzoli di neve che mi sembrano particolarmente accoglienti. Eppure, mentre precipito inesorabilmente verso il basso, provo un indescrivibile piacere. Tra l'altro, tra i vari esercizi che si fanno a teatro, c'è uno che è piuttosto divertente. Ha a che fare con la fiducia, non solo verso se stessi, ma anche nei confronti, anzi soprattutto, nei confronti della gente che ti circonda, quindi di quelli della compagnia. Probabilmente l'avete visto fare in qualche film, o l'avete fatto anche voi da soli qualche volta, non so, qualche corso strano. Dunque vi mettete di spalle e vi lasciate cadere. E sapete che dietro di voi ci sono i vostri amici che vi salveranno dal prendere una capocciata contro il pavimento perché vi sorreggeranno. Funziona, è una cosa molto liberatoria. Funziona a meno che ovviamente, come si vede nei film, succeda qualcosa all'ultimo che distrae tutti e gli fate una brutta fine, ma come detto succede solo nei film. Nella realtà funziona che di solito voi chiudete gli occhi, vi date una piccola spinta all'indietro, belli rigidi, e vi lasciate cadere. C'è un momento ben preciso in cui passate una soglia oltre la quale avete la certezza che per voi non è più possibile tornare indietro. Passata quella precisa inclinazione, passati quei precisi gradi geometrici, cadrete. Ecco, ed è proprio in quel momento lì che si prova contemporaneamente una straordinaria somma di sensazioni. C'è la paura di cadere, c'è la consapevolezza che si verrà presi dai propri amici, cosa che puntualmente accadrà, dopo una frazione di secondo però. Ed è una grande liberazione. Non so come dirlo altrimenti, ma quando si cade, ci si libera di qualcosa. È come se si lasciasse andare una parte di sé. E la cosa che mi colpisce di queste cadute è come quelle frazioni di secondo che passano dal momento in cui la nostra caduta diventa inevitabile a quando veniamo messi in salvo dalle braccia degli amici, si dilate a dismisura, diventando nella nostra testa un momento molto più lungo di quello che è effettivamente. Thank you. Questa cosa che abbiamo Simone Moro dopo la borsa ha scatenato un putiferio. Ci sono, evidentemente ci sono molti alpinisti, o quantomeno amatori. Come si dice? Cioè, uno, Tiziano, tu che lo sai, uno è alpinista solo quando è professionista o è alpinista? No, cioè uno è alpinista dentro, ci verrebbe da dire. Più tardi dopo la borsa, Simone Moro in diretta, no, perché l'abbiamo registrato, ma direttamente dall'Himalaya. No, è sbagliato dire dall'Everest. No, neanche dall'Everest. Ah, l'Himalaya è tutta la catena. Però non è ancora sull'Everest. È dal campo base 2. Dal campo base 2, 6500 metri. E là è sera, ci diceva che stava per cenare. Vabbè, tant'è. Anche Umberto è in montagna. Ci scrive da là al 349-238-6666. Sono in cima alla Pania della Croce, regina delle Alpi Apuane. Lucca, un caro saluto, Umberto. A proposito del fascino della caduta, invece, temendo che il mio bimbo cadesse in una cascata, mi sono sporta e sono caduta io. 4 metri di salto, forse 2 secondi, ma pensieri lunghissimi. Antonella da Treviso. Antonella, dici qualcosa di più? Cioè, una cascata dove sei finita in acqua, tutto a posto, immagino sì, se ci scrivi messaggi. È tutto a posto per Stefano, che appunto è qui e soprattutto ci ha raccontato com'è andata. Pronto, Stefano? Sì, ti sento. Ciao, come stai? Ma bene, bene. Questo ma iniziale mi fa pensare che tipo senti il cambio di stagione. No, no, più che il cambio di stagione sento un pochino, diciamo, l'emozione, ecco. Ok. Un po' più rodati. Va bene, ma quella passa. Raccontami invece, prima dicevi che il piede ti fa ancora male. Cos'è successo esattamente a quel piede e di fatto cosa ti sei rotto se sei caduto da 4 metri? La caduta, in pratica, mi sono... La diagnosi finale è stato, ho dato una botta sulla schiena, dove ci sono stati ematomi e basta, grazie al cielo non l'ho rotta, e poi ho avuto lo sbriciolamento dell'astragalo, che è un osso che molto importante. Che potresti non utilizzare la parola sbriciolamento, ti prego, che è una roba... Almeno un referto medico. Guarda, mi fa meno paura l'astragalo che la parola sbriciolamento. Che cos'è l'astragalo, scusa Stefano? Da quello che ho visto, che sta proprio sotto il calcagno, è uno dei pochi ossi dove entra dentro una vena che lo alimenta. Non... Ho capito. Ci carica parecchio del peso corporeo. Ma perché tu sei caduto praticamente in piedi? Il primo colpo è quello che mi ha spaccato il piede. Te l'ha polverizzato, possiamo dire? Polverizzato. Sì. Sì, polverizzato. Diciamo che per anni ho trovato. Sbriciolato, scusami, no, polverizzato, sbriciolato. Mi fa piacere che tu rida, Stefano. Adesso ci rido sopra adesso, perché rivivere quella sensazione, l'hai letta benissimo la cosa. No, l'hai scritta dopo benissimo. Dopo tanti anni risentirla leggere ti fa rivivere quel momento. Senti, vai ancora in montagna, è un amore che non passa. No, no, assolutamente ci vado sì sempre, anzi dopo quell'anno lì poi mi sono trasferito a Cogne, dove vivo, e mi sono sposato poi qual è, a Cogne. Qual è la prossima vetta? La prossima vetta, io ho un conto aperto con la Denderen come vetta, perché è 2 volte che la cerco di fare e per 2 volte ho dovuto girare rinunciare. E tornare indietro. Quanti metri è, scusami? È un 4.000, un po' sopra i 4.000, dovrebbe essere 4.100 come... Difficoltà alpinistica, mi chiede Bonini? Non è alta. Non è alta. Sì, poco difficile, un PD come grado di difficoltà. Un PD, benissimo, va forte il PD in questo periodo. Senti Stefano, a questo punto non ti chiedo se sei mai stato ai 6.500 in cui si trova Simone Moro in questo momento, però ti ringrazio per il racconto e soprattutto per quel particolare modo di raccontare quell'attimo in cui cadevi e non ti aspettavi, insomma ti aspettavi il peggio, in realtà fortunatamente è arrivato il meglio. Grazie mille ancora Stefano per il racconto e per la chiacchierata. Grazie a voi. Buona giornata. Auguri. Ciao, grazie anche a te. Volo di 40 metri su un ghiacciaio, rassegnazione, leggerezza ma non paura. 40 metri sono infiniti e te credo, Giampi. Adesso la borsa e poi insieme a Simone Moro, voi siete qui. Voi siete qui. È vero un po' che quella storia lì del fascino della caduta sembra una boiata e sembra una roba come scriveva Carlos da ragazzini. Il racconto di Stefano però dice una cosa diversa e anche i messaggi che arrivano al 349-238-6666. Daniele, a un certo punto della caduta ci si lascia andare, come se si diventasse più leggeri. Forse il fascino della caduta sta proprio in quel momento lì, quando si supera la paura per aver perso l'equilibrio, prima che arrivi l'urto con la realtà. Sbalzato dal gommone lungo un fiume in Nepal durante un rafting, ma un ascoltatore giusto che vada a lavorare a piedi o in metropolitana. Sono stato trascinato dalla corrente per circa 4 km, sono sopravvissuto. Ciao Andrea della Reggio Emilia. Andrea, lo immaginavo. L'astrologo sta sopra il l'astragalo sta sopra il calcagno e sotto la tibia. Brutto affare romperselo. Ciao Stefano, radiologo. Grazie Stefano, soprattutto per non aver ripetuto la parola sbriciolamento. E poi ancora, quando si tocca il fondo poi non si può che risollevarsi. Anche se c'era qualcuno che diceva, Frick Antoni diceva, si dice quando tocchi il fondo puoi solo risalire. Io mi sono ritrovato a scavare. Parliamo di cadere, ma parliamo soprattutto di arrampicare. Lo facciamo con il più forte alpinista italiano al momento, si chiama Simone Moro. Lui ha fatto 7-8 mila, e in questo momento preciso non è a casa sua a Bergamo, ma è sull'Himalaya. Pronto Simone? Ciao Matteo. Ciao, è un piacere conoscerti, grazie per essere qui e dedicarci il tuo tempo preziosissimo. No, figurati, è un piacere. Senti, mi dici dove ti trovi esattamente in questo momento? In questo momento sono a 6500 metri al campo 2 dell'Everest e sono arrivato oggi direttamente dal campo base. E domani continuiamo, andiamo su a 7300 metri al campo 3. E poi il giorno successivo ancora, se tutto va bene, andiamo su a Colle Sud, che è 8000 metri, si riposa qualche ora e poi si parte per l'Everest. Senti, perché allora, la nostra intenzione, scusami Simone, mi metto nel gruppo perché mi piace sentirmi parte di questa squadra, la nostra intenzione è quella di arrivare all'Everest e poi fare cosa esattamente? Allora, il tentativo vero quest'anno sarebbe di provare l'Everest senza ossigeno. Sì. E quindi già questa, diciamo, vale l'avventura, nel senso che io l'Everest l'ho già salito 3 volte. Sì. Però una volta ho dormito con ossigeno, una volta l'ho usato un'ora, insomma, qui sempre ho sempre, chiamiamola, sporcato la salita con un uso seppur limitato di ossigeno. Quest'anno vorrei tentare completamente senza. L'idea è quella di andare in cima all'Everest, quindi senza ossigeno, a 8848 e poi tornare giù a Colle Sud. Io ho anche poi il permesso dell'Ocse, che è la quinta montagna più alta del pianeta. Cosa vuol dire il permesso? Perché per scalare una montagna ci vuole un permesso governativo, molto costoso. Ah, devi pagare una tassa? L'Everest per scalarlo devi pagare una tassa di $70,000. Wow. È un permesso che vale per 7 persone, quindi 70 diviso 7 fa $10,000 a testa. Però sono sempre tanti soldi. Il Ocse costa un po' di meno, costa sui $2,000. Poi c'è l'ufficiale governativo che viene, ti segue, ti controlla, quindi insomma scalare l'Everest o gli altri 8000 non è solo una questione di pura passione, ma è anche un costo considerevole. Senti Simone, tu sei in una tenda adesso, immagino, giusto? Io sì, sono appena uscito perché ero nella tenda dove c'è anche il mio aiuto cuoco. Abbiamo cercato di fare un campo 2 abbastanza confortevole in modo da mangiare tutti assieme un po' al caldo. E sono uscito perché stavo facendo andare la pentola a pressione. Quanti gradi ci sono? Ma adesso saremo 6-7 sotto zero. 6-7 sotto zero. Di notte va, ovviamente. Sì, di notte va abbondantemente più sotto, arriva verso i 15 sotto zero. Riferito alla quota dove sono, 6.500. Certo. È chiaro che domani sera farà più freddo, dopodomani ancora di più, e quando si arriverà in cima all'Everest, se non ci fosse il sole, le temperature sono veramente polari, mentre grazie a Dio il sole e purtroppo e per fortuna il global warming stanno elevando le temperature anche in altissima quota qui. Cioè, quindi sono sensibilmente più alte rispetto a quanti anni fa, scusa sì, Simone? Sì, sì. Ma io la prima volta che sono venuto qui era nel 1992, quindi 20 anni esatti. In 20 anni ho visto dei cambiamenti veramente pazzeschi in termini di assottigliamento dei ghiacciai e di temperature miti anche a 6500 metri. Oggi, ad esempio, faccio un esempio, il problema era che si faceva fatica a stare in tenda perché con il sole faceva troppo caldo. Addirittura. Senti, che cosa si mangia oggi, Simone? Allora, si mangia, mi ha appena detto, una soup, perché è importante bere tanto, quindi sì, probabilmente sarà una zuppa e gli metterò dentro dei tortellini, e poi polenta. poi abbiamo anche un pezzo di parmigiano. Cerchiamo di mangiare il più naturale, il più appetibile possibile. Buste strane robe le ho utilizzate nel, sì, sì, chiaro, chiaro. Senti Simone, invece considera che tu stai parlando con uno che è andato al massimo all'Alpe Maccagno a mangiare la toma, quindi mi spieghi, sì, mi spieghi che cosa succede al corpo umano a 6.500, poi 7.000 e 8.000? Beh, allora innanzitutto dove sono io adesso c'è circa il 50% dell'ossigeno che stai respirando tu adesso in studio. E quindi il corpo umano cosa fa? Deve adattarsi. All'inizio aumenta il numero di atti respiratori e la frequenza cardiaca. Sì. E questo è il primo periodo, si chiama ipossia acuta. Poi man mano tu rimani esposto, che continui quindi a stare in alta quota, perché il campo base è 5.300 metri, il corpo umano nel frattempo continua a produrre globuli rossi, quello che viene chiamato ematocrito. Sì, allora, l'ematocrito, sì. L'ematocrito, esatto, l'ematocrito qui in maniera ovviamente naturale, qui non c'è l'EPO o altre, certo, schifezze del genere, arriva anche a 55, 58, anche 60, ed è l'unico sistema che ha il corpo umano per aumentare, chiamiamoli così, i carrier, cioè i trasportatori di ossigeno, aumentandoli di qualche milione, il numero di globuli rossi, riesce a sopravvivere a queste quote. È chiaro che domani andando a 7.300 le cose saranno un pochettino più difficili, perché cominciamo ad arrivare quasi a un terzo dell'ossigeno. Ma quindi scusa, per capirci Simone, tu in questo momento stai facendo fatica a parlare banalmente? No. Adesso okay. No, perché son fermo. Diciamo che sono un po' stanco oggi, perché nei 15 giorni precedenti alla salita al campo 2 ho fatto parecchi soccorsi sulle montagne qui intorno, e fisicamente mi ha provato, perché fare un soccorso sulle Alpi è già difficile e rischioso. Sì. Farlo a 6 o a 7 mila metri implica un'erogazione di energie e si fa una fatica poi qui a recuperare. Che tipo di quindi soccorsi hai fatto? Ma io sono andato 3 giorni fa in parete a 6.400 metri, una parete verticale di 2.000 metri, e il team era composto dal sottoscritto e da un altro italiano, perché io qui lavoro anche come pilota di elicottero del soccorso, però per fare questo soccorso qui io ero quello che era appeso sotto l'elicottero, certo, mentre il pilota era Pier Giorgio Rosati, e quindi abbiamo fatto un soccorso che tra l'altro è anche un record, perché abbiamo dovuto smontare il più possibile l'elicottero, abbiamo tirato via le porte, abbiamo tirato via i sedili, abbiamo tirato via una delle due batterie per poter essere leggeri, e riuscire ad andare a 6.400 metri, stare là fermi in overing mentre io mi attrezzavo una sosta, sì, mentre io mi attrezzavo una sosta con un trapano, e poi sono rimasto là appeso da solo quasi in cima alla montagna per 2 ore, e non sono riuscito a finire il lavoro, e il giorno dopo sono tornato su e c'era un cadavere di un alpinista ucraino che era lassù da 2 anni, i familiari giustamente lo rivendicavano, anche poi tra l'altro per problemi di assicurazione, perché risultava disperso, e quindi era importante portare il corpo a casa. Poi ho fatto altri soccorsi su montagne più piccole, però insomma sono robe impegnative. Senti Simone, poi davvero non voglio rubarti troppo tempo, però la puntata di oggi, la nostra puntata di oggi, sì, è stata composta dalla storia di un giovane alpinista italiano che ci ha raccontato il momento esatto in cui ha perso un appiglio ed è caduto. È caduto, sì, se ce l'ha raccontato evidentemente non è stato nulla di grave, però si è rotto parecchie ossa. E la cosa più, diciamo, interessante del suo racconto è proprio la descrizione di quell'attimo che lui dice si dilata nel tempo, della caduta, in cui addirittura lui trova, con parole anche, diciamo, abbastanza ricercate e attente, lui dice ci trovi una sorta di strano piacere in quell'attimo di caduta lì, una sorta di liberazione. Ti è mai capitata una sensazione di questo tipo? Ma sì, mi è capitato nel 1997, il giorno di Natale, non ho perso l'appiglio, ero qui in Himalaya e sono stato travolto da una valanga, eravamo in 3 e di quei 3 sono sopravvissuto solo io. Io devo essere sincero, non sono entrato in questa sorta di limbo, quasi una sorta di anticamera dell'aldilà. Io me lo ricordo lucidamente per la valanga, e ricordo solo che cercavo di sgambettare e di nuotare il più possibile, quindi ero aggrappato talmente tanto alla vita che il limbo l'ho posticipato un'altra volta. Devo essere sincero, il momento, il piacere che ha probabilmente descritto questo ragazzo, e invece il mio è un pochettino più è diverso, è il piacere che si prova magari dopo anche una grande fatica, magari anche dopo una titanica fatica come quella dell'Everest, arrivare in cima sul punto più alto del pianeta raggiungibile a piedi e vedere la linea dell'orizzonte curva, cioè vedi già la Terra rotonda. È vero che non c'è bisogno di andare su là per saperlo, però quando lo vedi con i tuoi occhi, beh, quello è un piacere immenso che vale tutte le fatiche. Che cosa vedi esattamente in questo momento davanti ai tuoi occhi, Simone? In questo momento vedo un tramonto strepitoso, vedo l'Everest sulla sinistra e il Lhotse sulla destra, io sono 2300 metri sotto, quindi ancora un bel viaggio per arrivare in cima, e se mi giro è un tramonto incredibile, perché ovviamente essendo così alto, giù nella valle è già notte da un bel po', certo. E qui oggi del sole ci hanno appena lasciato. Senti, l'ultima cosa, prevediamo ad arrivare sull'Everest quindi, se tutto va bene, tra 3 giorni? Sì, dovrebbe essere il 25, io sono concentrato a riuscire a recuperare il più possibile, non mi era mai capitato di sentirmi un po' così stanco con le gambe, era prevedibile, però insomma... Se qualcuno ti chiede di fare un soccorso, non è che gli dici no, non vengo perché devo scalare l'Everest. Ovviamente. Io perlomeno non reagisco così. Ce la metto tutta e ho il telefono satellitare e vediamo, magari sarà anche l'occasione per comunicare. Non sarebbe male. Simone, senti, io ti auguro una buona cena, mangiati la polenta e poi riposati più che puoi. Va bene, ok. Grazie mille. Ciao, grazie Simone. Ciao, grazie. simonemoro.com se vi interessa, il suo libro è La voce del ghiaccio, Simone Moro, lo risentiamo giovedì. Grazie a tutti, la storia di oggi era quella di Stefano, parlava di cadere, quella di domani è la storia di Carlo e parla di musicisti. Scusi, mi sono persa, potrebbe dirmi dov'è l'Hotel Majestic? Lei è molto sorridente e carina, e mi è difficile ignorare qualcosa di così bello e disperato. Però purtroppo non saprei assolutamente come aiutarla. Le spiego che non sono di Bologna e non ho la minima idea di dove si trovi il suo hotel. Però, se mi dà un minuto, posso chiedere a qualcuno e tradurle l'informazione.